Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione, Pietro Lacorte in regia. Conteremo di offrirvi una grande ora di sport, innanzitutto di basket, perché già abbiamo la febbre, 18:30, tocca a Siena e alle 18, attenzione, non arrivate a casa in ritardo, alle 18 tocca a Siena. Prima semifinale a Barcellona, Final Four numero 4. Per la Montepaschi e chissà, incrociando tutto quello che si può incrociare, toccando tutto quello che si può toccare, che non sia la volta buona per la festa senese. Panathinaikos è un ostacolo già altissimo, poi l'altra semifinale, quella degli underdog, secondo me, Real Madrid-Maccabi, ugualmente difficile da leggere. Io saluto e ringrazio coach Dan Peterson, come sempre con noi. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Tutti stretti intorno a Siena, dicevo. Ho letto ieri i tuoi pronostici su Carta Rosa, coach, sulla Gazzetta, che hai pronosticato una Final Four che non possiamo consigliare ai deboli di cuore, no? No. Vittorie strettissime, un punto, massimo due da qui alla finale. Io ho detto Siena batte Panathinaikos per uno, Real batte Maccabi per uno, poi le due... terzo, quarto posto per due punti e il finale per due punti, perché lo vedo così, vedo le squadre per diversi motivi molto ben assortite in questo senso qua. Se Siena batte Panathinaikos sarà per strette misure e anche viceversa. E poi Madrid, che forse è la quarta squadra per forza, non gioca in casa assolutamente, perché Barcellona è tutt'altro che casa, sì. Però gioca in Spagna e quindi avrà un grande seguito del loro pubblico, dei loro tifosi, quindi le possibilità di fare qualcosa c'è. Senti Cosio, questa Siena, questa Montepaschi è una dinastia, come la tua Milano, come la tua Olimpia degli anni 80. Assolutamente, loro fino a prova contraria hanno fatto tutto, e poi come ho scritto ieri alla Gazzetta, è la squadra più forte che io vedo quest'anno, cioè proprio lo dico come telecronista di Sport Italia, sì, lo dico come allenatore dell'Olimpia Milano, c'è una corazzata, veramente loro non ti concedono un millimetro, un millisecondo di niente, in attacco, in difesa, anche con pressing. È una squadra molto, ma molto, ma molto completa. Sì, come tutte le grandi squadre, come tutte le dinastie, coach, si passa e si cresce, si arriva alle vittorie attraverso le sconfitte. Con l'Olimpia Milano perdesti una finale scudetto, una semifinale incredibile con Cantù prima di arrivare allo scudetto dell'82. Abbiamo perso due semifinali con Cantù. Sì, sì, altra sì. Che storia, quindi... o cicatrice dappertutto, grazie certo. A Cantù. Servono le cicatrici. Poi hai perso la Coppa dei Campioni a Grenoble nell'83, sempre contro Cantù. Bisogna diventare grandi attraverso le sconfitte, anche per Milano, anche per la tua Milano. La Coppa dei Campioni era diventata un'ossessione, no? E sì. Siete arrivati a vincerla nell'87, quindi quasi alla fine, nel tuo ultimo anno e alla fine di quella dinastia. È così, hai detto tu. Io dico sempre: tutti vogliono vincere. Sono le squadre campioni che non vogliono perdere, questa è la storia, e quindi Milano avevamo quella qualità lì, come ce l'ha Siena oggi, c'è proprio squadre serie che proprio hanno la mentalità di lottare su ogni pallone, cioè in attacco, in difesa, a rimbalzo in attacco, a rimbalzo in difesa, palle veganti, tuffi in campo, cioè fanno un po' di tutto per vincere, e questo è ammirevole patrone, e riescono a mantenere questa intensità per tutta la stagione, tutte le partite, 40 minuti, cioè pochissime pause, anzi quando perde Siena è sempre, Siena ha perso per pochi punti, quindi loro solo, infatti hanno perso il campionato quest'anno per un punto, se non sbaglio, a Varese, un punto a Caserta, poi l'altra era perso con Avellino in casa, che è tutta una sorpresa, forse puntando a questa manifestazione qua. Sì, comunque tornando a quelle finali perse, le grandi squadre sono anche quelle che hanno la forza di riprovarci, no? Perché sì. La vostra sconfitta a Grenoble, ad esempio, nell'83, che ricorderai meglio di me, no? contro Cantù. Insomma, dopo quella uno può dire, vabbè, lì non ci arriveremo mai. Invece ci avete provato ogni anno e siete arrivati appunto a vincerla nell'87. Losanna contro Maccabi Tel Aviv, che sì. Manca a dirlo, c'è anche a questo giro. Quelle finali perse, che cosa vi hanno dato? Well, anche bisogna dire che abbiamo perso la finale di Coppa delle Coppe, sì, certo. 84 contro Real Madrid, diverse cose. Ti danno una frustrazione, senso di frustrazione, ma allo stesso tempo hai detto tu perfettamente, dopo dice ehi, voglio vincere anche una di queste cose qua, ok, cioè proprio basta con un vincere, cioè proprio dopo viene veramente la rabbia, la voglia, le altre cose che che portano alla vittoria, a dir poco. Senti, ma forse non te l'ho mai chiesto, ma se avessi perso quella notte a Losanna nel palaghiaccio, facevo un freddo boia, sarei ancora, sarei rimasto, perché saresti rimasto, vero? Assolutamente, cioè proprio quando hai detto tu una sessione, forse la parola è forte, però una missione più che altro, che volevo assolutamente vincere la competizione, cioè era nella mia testa, volevo vincere, ma non solamente io, ovviamente i giocatori, la società, a nominarmi una persona della società, tutti avevano in mente questa idea, io ero uno di tanti. Siena ce la farà? Ve lo chiedo, 800 24 0024. Al coach invece chiedo una lettura tattica da allenatore di Siena Panathinaikos, ma anche di Maccabi Real Madrid, che mi sembra una partita molto difficile da leggere. Ma è molto più difficile, perché quando parli di... trattiamo loro prima. Maccabi è una squadra che tu non puoi dire, oh, lì c'è un punto debole, o oh, lì c'è un punto forte. Sono una squadra talmente completa, globale in tutte le cose che fanno, però con Maccabi Tel Aviv, per tradizione, bisogna rispettare il contropiede. Questa è la prima cosa che certamente il Real Madrid dice, non lasciamo loro stendersi proprio in contropiede e fare quello che vogliono, cioè cerchiamo noi di chiudere, rientrare in difesa e chiudere questo qui. Per quanto riguarda il Real Madrid, anche loro vanno in velocità, e se io sono David Blatt dico, Sergio Llull non mi può, non possiamo permettere lui di batterci, dobbiamo rientrare a conto di lui, impedire la sua penetrazione, e poi Mirotic sta venendo fuori come grandissimo giocatore, come siamo, quindi bisogna prestare attenzione un po' a tutte queste due squadre. Per quanto riguarda Siena e per quanto riguarda Panathinaikos, io dico la difesa di Panathinaikos e la difesa di Siena sono le due migliori difese probabilmente di Europa, insieme a Barcellona. Purtroppo per la manifestazione, Barcellona contro Panathinaikos nelle quarti finali. Sì. E anche due squadre che hanno grande disciplina in attacco. Siena probabilmente un faro in più in Stone Rock. Se io sono Obradovic, prendo l'esempio dell'Olympiacos nella prima partita, in cui hanno anticipato Stone Rock e hanno pressato il playmaker. Ovviamente adesso ci sarà McCaleb che fa playmaker lì, in quella partita lì non c'era McCaleb, e quindi lo stesso Siena ha vinto. Poi sono due squadre profonde, profonde, profonde. Se io sono Pianigiani dico Diamantidis, cioè bisogna puntare sul giocatore chiave dell'altra squadra. Diamantidis e da una parte Stone Rock, dall'altra parte, che sono i due fari della situazione, diciamo. Sì. Cos, per chiudere, Milano, due belle vittorie con Cantù e contro Caserta, segnali di crescita importanti, credo, no? Mi pare di capire. Stiamo migliorando poco a poco, hai capito? Sì. Io chiedo solo questo, di cercare di migliorare da partita in partita, da settimana in settimana, e stiamo un pochettino facendo questo. È chiaro che si può fare sempre meglio, questo è matematico, ok? Però globalmente parlando, dico che stiamo facendo dei piccoli progressi. Spero di continuare a farli e aver fatto abbastanza progressi nel tempo che arriviamo proprio ai playoffs. E questa è la nostra missione. Grazie coach, un abbraccio. Ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. Ciao, grazie coach Dan Peterson. 800 24 0024, numero verde per intervenire in questa puntata, insomma, di grande tensione, no? Diciamolo, perché a Siena, insomma, ci stringiamo tutti intorno a Siena, perché è importante per il basket italiano, e qui dico delle banalità, però sono vere, sono reali, anche se Siena, secondo me, rappresenta la sua bravura e la sua grandezza più della pallacanestro italiana. Ripeto, 800 24 0024 per voi, messaggio SMS 349 238 6666, nelle prossime occasioni, nelle prossime puntate, quindi restate su questi schermi. A proposito di schermi, ho aperto il programma dicendo una sciocchezza e facendo ammenda: non alle 18.30 ma alle 18, d'altra parte gli orari sono stati variati in queste Final Four di Eurolega, come sapete, soprattutto per quanto riguarda la finale di domenica, un orario insolito e non, insomma, che non è il massimo della vita, secondo me, però ci sono ragioni dettate dal Maccabi, che sulle quali l'Eurolega, alle quali l'Eurolega ha aderito. Dunque, alle 18 oggi Panathinaikos, Atene, Montepaschi, Siena, Sport Italia è l'emittente, ovviamente trasmetterà le Final Four. Alle 21 Maccabi Tel Aviv Real Madrid, domenica 13.30 per il terzo posto, la finalina che è, insomma, che non riesce ad andarmi giù, perché la finale dei perdenti è la cosa più triste del mondo, a mio parere. Alle 16.30 di domenica si giocherà per il titolo europeo finale che proveremo a raccontarvi, dato che guarda caso non siamo d'accordo con il Maccabi, però il nostro programma di sport della domenica comincia proprio a quell'ora. Tra l'altro, chi vince secondo voi? Ditemelo, già, ascoltatori già in linea, 800 24 00 24, sarebbe il caso di tornare sulla vetta della montagna da cui manchiamo da 10 anni secchi, 2000-2001, quelle 5 partite tiratissime tra la Virtus Bologna di Messina, di Ginobili, di Rigaudot, di Griffin, di tutti quelli che volete, una grandissima squadra che vinse quelle in 5 gare con formula diversa, non c'era la Final Four, allora con il Tau Vitoria a Bologna, festeggiando la Coppa a Bologna. Da lì a qui, solo sconfitte, in finale, in semifinale, con Siena che ha partecipato 3 volte e mai riuscito a mettere le mani su quella Coppa, con la Fortitudo, ricorderete quel derby pazzesco a Tel Aviv proprio tra Siena e la Fortitudo, con la Fortitudo che andò in finale per poi perdere malamente con il Maccabi, favoritissimo e padrone di casa. A Barcellona saranno scelti anche il miglior giocatore dell'Eurolega e i 2 migliori quintetti candidati. Siete d'accordo? Ve lo chiedo. Guardie Diamantidis, Pargo, Panathinaikos e Maccabi, guardie ali Navarro, Yul, Spanulis, Sane Meterio, ali centri Savanovic, Skorzanidis, Lavrinovic e Battista. Questi candidati al titolo di MVP ovviamente andrà a quello, a giocatore della squadra che comincerà secondo le migliori tradizioni. Andrea da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Speriamo. Ascolti, sono in macchina con un viva voce, provo sì, a alzare. Sì, grazie. Beh, innanzitutto un grosso in bocca al lupo per Siena per oggi pomeriggio, una squadra che ho visto recentemente asfaltare la mia Virtus. Sì. E comunque la mia domanda era un'altra, a prescindere da Siena. Io rivedrei bene il signor Messina nella nostra panchina. Lei cosa dice? Quella della Virtus Bologna? Alla grande, sì. E allora io chiedo a lei, dove non vedrebbe bene Ettore Messina? Dove? Su quale panchina non lo vedrebbe bene? Visto che Milano ho sentito che forse non ci va, come va detta, noi lo aspettiamo e lo aspettiamo con molta gioia qui a Bologna, se sì, volesse venire. Insomma, volesse anche venire, noi lo prendiamo, ci mancherebbe altro. Avremmo. Oggi non so se ci riusciamo perché ci sono mille impegni, però avremmo un mezzo appuntamento con Ettore Messina, magari poi glielo chiediamo di persona. Anche se, insomma, è chiaro l'affetto, sono chiare le fantasie di tutti, però ci sono anche ragioni di reali di budget, e non credo che in questo momento siano pochissimi i club in grado, europei in grado, di potersi permettere Ettore Messina e tutto quello che ne conseguirebbe per quanto riguarda la costruzione di una squadra all'altezza del più bravo allenatore d'Europa. Max da Treviso, unica soddisfazione per noi trevigiani, 3 coach su 4 sono passati per la Benetton, verissimo, verissimo, verissimo. Nicola da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io penso che Cina se la farà intanto e la chiave sarà Storruk, che sarà battezzatissimo da Obradovic, sì, come l'altra volta. Se mette con le 3-4 triple che penso stavolta metterà, Cina va a vincere l'Eurolega. E poi volevo chiedere un'altra cosa. Dica. L'altra volta io ero quello che avevo mandato il messaggio di Miami in Siena e gli europei, se lo ricorda. Se me lo ricorda facciamo prima, perché i messaggi ne arrivano un sacco. Avevo detto che Siena vinceva l'Eurolega, Miami l'NBA e l'Italia è sul podio europei. Ricordo. Soprattutto per quell'Italia sul podio degli europei. Soprattutto. Appunto, te le volevo chiedere, secondo voi, a parte la Spagna che è un altro pianeta, e forse a talento la Francia, ce ne sono molte più forti dell'Italia al completo? Grecia, Turchia, Jugoslavia, come ne mettiamo? Dove ne mettiamo? La Grecia la vedo in parabola discendente, la Turchia in casa ha reso più di quello che merita, secondo me, e la Jugoslavia... Serbia, naturalmente. Esatto, sì, per me siamo più forti. Dai, dice. Benvenga l'orgoglio patriottico, insomma. Io non sono poi convintissimo, perché... Insomma, la Serbia io l'ho vista in netta crescita agli ultimi europei, soprattutto in cui è arrivato in finale, ha una squadra molto giovane. È vero che ha avuto qualche grana con Ivković, che se n'è andato, poi è tornato e non si capisce bene che succede, però io credo che la Serbia possa essere pronta per un titolo continentale. La Spagna è la Spagna, come sappiamo, e la Grecia in calo può essere, però l'Italia sul podio, secondo me, adesso sta a mezza strada tra il sogno e il miracolo. Ecco, poi speriamo, vediamo chi viene innanzitutto e poi vediamo se cambia il vento. Saluto e ringrazio Flavio Tranquillo. Ciao Flavio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senti, visto che l'ascoltatore era quello dei pronostici e insomma vede Miami favorita per il titolo, io prima di andare su temi caldissimi, bollenti dell'Eurolega, ti chiederei una valutazione su questo approccio del finale del semifinale di Conference e soprattutto su LA che è sull'orlo del baratro. Nessuno, ma pochissimi sono risaliti da questo 0-2 casalingo. Può essere l'ultima sfida lanciata da Phil Jackson? È l'ultima sfida a cui si trova di fronte, arrivare a pensare che abbia perso apposta per poi, riuscire a risalire, come lui ha accusato peraltro nel passato di fare Kobe quando giocava al liceo, di tenere le partite lì in modo da poter fare l'eroe alla fine. No, questa volta non credo che sia così. Penso che sia una classica situazione delle squadre di Phil Jackson. È ovvio che è il più grosso gestore di conflitti con successo, credo, della storia dello sport mondiale, sicuramente del basket, però quei conflitti ci sono e sono esplosi con le contraddizioni in gara 2 in maniera onestamente difficile da pronosticare. Io non penso che i Lakers abbiano perso gara 2, non hanno giocato gara 2, che essendo sotto 1-0 nella serie è un concetto completamente diverso, però paradossalmente è anche il concetto che mi fa pensare che se cominciano a giocare la serie possono provare a vincerla. Adesso però è una serie di 48 minuti e in 48 ore riuscire a fare quello che non hai fatto per ormai forse ci mettere dentro anche la serie con New Orleans per un 15 giorni non è facile. Sì, ti ha sorpreso Dallas? No, non mi ha sorpreso più di tanto, credo che fosse nella situazione ideale, una squadra da trasferta, una squadra che credo da 3 o 4 stagioni ormai aspetta questa partita, ha costruito la squadra esattamente per provare a battere i Lakers. Per cui giocare a Los Angeles senza pressione, con la possibilità di fare l'impresa e vedendo di giocata in giocata che puoi davvero farla, è un certo tipo di situazione. Mi sorprenderebbe onestamente se vincesse facilmente gara 3 per propri meriti, perché quella la ritengo invece una partita difficile mentalmente per Dallas. Sicuro, anche dall'altra parte Boston ha perso a Miami 2 volte, non sembra dalla faccia di chi riesce a raddrizzare questa serie. Adesso no, non sembra averla, però lì invece mi sembrano 2 sconfitte, cioè a Miami hanno perso perché proprio da un punto di vista di impatto fisico e atletico, prima che tecnico, sono stati inferiori agli avversari. Lì la domanda mi sembra, il fatto di tornare a Boston e il fatto di avere delle teste piuttosto dure, nel senso più positivo del termine, penso a Garnett, penso a Pierce, penso allo stesso Allen, non parliamo di Rondo, che effetto avrà? Riuscirà in qualche maniera a fargli colmare questo tipo di gap? Forse in gara 3 sì, mi verrebbe da dire quasi sicuramente. A quel punto gara 4 diventerebbe il perno della serie, però Miami è stata davvero superiore. Sì, Boston ha sempre l'idea di una squadra che da tutta la stagione cerca l'interruttore e non l'ha ancora trovato. Esatto, esattamente. Le altre 2, 1-1 e 1-1, Chicago-Atlanta, con Atlanta che è andata a fare lo squillo a Chicago alla prima, e poi l'1-1 che è arrivato. Anche Memphis è partita benissimo con Oklahoma, mi sembrano 2 serie molto interessanti, Flavio. Molto interessanti, io penso che Chicago abbia la forza di potersi fondare sulla difesa. Quando fai fare 73 punti agli avversari in gara 2 con la pressione addosso, significa già mettere lì una cosa importantissima, perché non dipendi dal sapere o poter o essere in condizione di fare 100 punti quel giorno, ma dipendi solo dal fatto di andare con la convinzione giusta. Quindi io penso che Chicago prima o poi prenderà il controllo di questa serie. L'altra è molto più interessante secondo me. Memphis non è lì per caso, è una forza incredibile, ha giocato anche per 82 partite di regular season per proprio metodo e sistema la pallacanestro che si gioca nei playoff, sì. E quindi vincerà Oklahoma City, io credo che vincerà Oklahoma City, però quella è una serie lunga e non sarei stupito se Memphis ci stupisse un'altra volta. Ma intanto con Flavio Tranquillo io voglio assolutamente approfondire il preview delle partite che ci aspettano, 18 Siena, 21 Maccabi Tel Aviv. Caro Flavio, mentre gli ascoltatori si sbizzarriscono nei pronostici con ad esempio Filippo Novara, il pana perde con Siena non è più quello di Spanulis, Pekovic e Jasikevicius, comunque mi sembra ci sia più equilibrio, quindi d'accordo col coach, Real campione. Lakers diventeranno la prima squadra della storia a playoff a rimontare da 0 a 3, mi sembra tanto quest'ultimo pronostico, soprattutto, e anche quello del Real campione non lo so, però io resto convinto del fatto che che questa semifinale, Flavio, tra Siena e Panathinaikos richieda comunque tantissime energie ad entrambe e serviranno comunque tantissime energie per una finale che secondo me non è così scontata come si vuol far credere. Si dice sempre così quando c'è una Final Four, sono partite secche, ma mai come questa volta di scontato non c'è assolutamente nulla. È vero che il Panathinaikos non è quello di Ezikiewicz e di Spanoulis, se vincerà probabilmente lo farà per questo e se perderà lo farà per lo stesso motivo. Se perderà, perderà perché non ha quella superiorità in termini di talento che aveva allora, se vincerà è perché non aveva quei fattori di devianza rispetto al sistema che erano rappresentati da Ezikiewicz e Spanoulis. Non c'è una squadra nettamente più forte delle altre neanche sulla carta. Direi che Panathinaikos è quella dello 0,01 per mille un po' più solida rispetto alle altre tre guardandole così, ma tanto sono partite secche, bisogna guardarle, interpretarle e se qualcuno veramente pensa beh tanto ho vinto la semifinale poi la finale è una passeggiata, ha già perso la finale prima sì, di cominciare. Sì, sono d'accordissimo anche perché è molto difficile da leggere anche Maccabi Real Madrid, prima ci avevamo provato con Coach Peterson, però realmente è una partita molto difficile per il contropiede, come scrive tra l'altro Ettore Messina, del Maccabi, che forse è il migliore d'Europa, per un Real Madrid che comunque è molto giovane ma ha linee di gioco precise anche con Molin. Decisamente. Penso che Maccabi Real Madrid sia la partita tra due squadre fisiche in maniera diversa, una più esplosiva il Maccabi, l'altra più potente il Real Madrid, con una differenza tra il primo e il decimo, se non il dodicesimo del roster, limitata da una parte e dall'altra, quindi senza la possibilità di poter avere un punto di riferimento preciso. Chi riesce a metterci un filo di sale in zucca, cestisticamente parlando, in più, presumibilmente la vince. Senti, che partita ti aspetti da Obradovic, che battezza crudelmente, fa scelte difensive soprattutto molto drastiche, tutti aspettiamo che sia lei a battezzare Storruk e a lasciargli 5 metri per il tiro da 3 punti, sarà così anche stavolta? Ma io penso che possa essere così inizialmente anche stavolta, però non so se questo sia così importante come sembra, nel senso che comunque questo è un tipo di partita in cui tu puoi generare anche 65 punti e vincerla, a differenza di altre partite, anche di playoff. Questo è veramente diverso da questo punto di vista, quindi io mi aspetto una situazione in generale o tramite questo o tramite altre cose in cui si preferirà far tirare da fuori Siena, che peraltro è una situazione anche che vale per Siena, nel senso che tra una schiacciata di Battista e un tiro da tre di Battista, anche con i piedi per terra, sai già che cosa prendere a questo livello. Per cui i 5 metri me li aspetto, ma non li vedo così centrali all'interno di quello che deciderà la partita. Grazie Flavio, un abbraccio. Saludo. Domenica sera, saludo, se domenica sera ne parliamo col risultato della finale di Eurolega in mano, sotto gli occhi, anche perché sotto il naso, dove volete, e anche perché dalle 20.30 alle 21 saremo qui, anche se non c'è campionato, però insomma c'è la finale di Eurolega. Da troppo tempo mancava questi microfoni Dino Meneghin, presidente federale, nostro amico della prima ora. Ciao Dino! Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ben trovato. Ti aspetto prima o poi anche da queste parti a venirmi a trovare quando in volete, studio. Quando volete. Quando passi per Milano sei impegnato più di Obama, insomma. Io, prima di parlare al presidente federale, volevo parlare al signore delle Coppe dei Campioni, oggi. Colui che ne ha vinte 7, aprendo tra l'altro la dinastia di Varese nel 70, Varese che poteva essere una Siena ante litteram, o no, Dino? Sì, beh, quello era una serie incredibile, a un altri tempi erano diverse le regole, ma comunque Varese ha fatto 10 finali di fila consecutivamente, vincendone 5 e perdendone 5. Ma comunque la grande soddisfazione era quella comunque di giocarsi la finale, quello che poi a cui tutte le squadre e le società aspirano. Giocarsi purtroppo in soli 40 minuti una stagione intera, ed è quello il bello e il brutto di questo sport, soprattutto di queste finali. Però alla fine, quando vinci, naturalmente, allora ti diverti veramente e sfoga tutta la passione. Sì, quasi tutti pensiamo o speriamo quantomeno che per Siena sia la volta buona, che sia davvero matura, che sia la fine di questa scalata. Prima ne parlavo con il coach, no, a proposito della Milano di cui tu eri il simbolo. Anche voi siete arrivati a quella Coppa dei Campioni dopo tante sconfitte, dopo tante cicatrici con tante cicatrici addosso, dice il coach. Quando la Coppa dei Campioni, l'Eurolega, la Coppa più bella era diventata per voi quasi un'ossessione. Vedi Siena in una situazione simile a quella della Milano dell'87? Ma in un certo senso sì, perché Siena da anni fa cose splendide nel campionato italiano, poi purtroppo per diversi motivi non riesce a eccellere in quello che è la competizione europea più importante. E quindi manca proprio questo trofeo, la bacheca, ma non tanto per mettere una coppa in più o in meno, quanto per avere la consapevolezza di aver lavorato bene, di aver costruito una squadra di grandezza europea, e di mettere il proprio nome poi alla fine in questo elenco sempre più lungo di squadre campioni. Ma dimostrazione che a testimoniare del lavoro fatto bene, ecco, lottando contro squadre e società che hanno dei budget che sono 2-3 volte superiori. Questa è la bellezza un po' di Siena in questa competizione, per quanto riguarda quest'anno almeno. Adesso parlo al presidente federale invece. Il titolo più bello, il titolo più importante d'Europa ci manca da 10 anni, no? Quando lo vinse la Bologna di Messina, lo sappiamo bene, con Ginobili, Rigado, con una super squadra. In quelle 5 partite con il Tau Vittoria, da allora tante sconfitte, diverse Final Four, ma tante sconfitte. Quanto conta, quanto conterebbe per il basket italiano questa Coppa, Dino? Beh, è un'immagine bellissima e pazzesca, vuol dire, darebbe una dimostrazione prima di tutto ulteriore che il nostro comunque è un movimento che lavora, che fa e si dà da fare e cerca di costruire sempre meglio. Però ti dà quella dimensione internazionale che per il momento ci manca sia a livello di club che a livello di nazionale. Perché poi sicuramente è bello essere campioni nel proprio cortile, ma se sei campione della città o campione italiano, per fare un esempio banale, insomma, è tutt'altra cosa, la dimensione del risultato è totalmente diverso. E soprattutto, al di là di dare la soddisfazione agli allenatori, ai giocatori, presidente, tifosi, eccetera, hai la possibilità di andare sul mercato poi e trovare qualcuno che possa investire ancora di più in una società che è campione d'Europa, che è al top del basket europeo. Certo. Questa sarebbe veramente un'iniezione anche di denaro liquido a cui tutti quanti aspirano. Anche se, signor Presidente, io credo che Siena rappresenti più se stessa che non il basket italiano. Rappresenti più la sua bravura che non il movimento del basket italiano. Ma questo sicuramente. Poi però alla fine della fiera è una squadra prodotta dal campionato italiano. Il campionato italiano è molto competitivo e permette a Siena di perfezionare il proprio gioco e cimentarsi con le altre squadre e rendersi conto quando c'è da lavorare, come e quant'altro. Ecco, per cui è sicuramente una soddisfazione propria di Siena, ma al tempo stesso di tutta la palestra italiana, perché poi non dimentichiamo che Simone Pianegiani è allenatore della nazionale, anche qualche giocatore italiano, quindi dà una dimensione europea anche a lui stesso, un'immagine che poi positiva, che si può tradurre anche in quello che è l'allenare la nazionale, un certo senso di rispetto degli arbitri, dei dirigenti internazionali. A questo proposito, Dino, per chiudere, c'è un ascoltatore che prima è anche intervenuto, l'altra volta mi ha mandato un messaggio che si sbizzarrisce nei pronostici: Siena campione d'Europa, Miami campione della NBA e l'Italia sul podio agli europei. Pensa un po'. Bello, eh? Va bene, sottoscrivo. Firmiamo tutto, compreso Diamola Miami. Per buona. Diamola per buona. Guarda, di Miami non me ne frega un tubo. Ma bravo, neanche a me. Va bene. Grazie Dino, senti, torna a trovarci, ti aspettiamo qui e ci mettiamo d'accordo. Assolutamente. Prendiamo un grazie. Appuntamento. Grazie Dino Meneghin, con cui chiudiamo questa chiacchierata aspettando Siena, anche perché tra poco e subito dopo il traffico, insomma, vi regaliamo un'anteprima di Giro d'Italia. Vi ho annunciato all'inizio una puntata non solo di basket ma di grande sport oggi, perché sono tantissimi temi che confluiscono in questo weekend che seguiremo un battito dopo l'altro, a cominciare da domani alle 17 con a Tempo di Sport e poi domenica naturalmente. Comincia il Giro d'Italia, parte domani da Torino, e l'altro giorno è passato di qui Ivan Basso, che ci ha detto un sacco di cose sul Giro che sta per cominciare, sui suoi sogni al Tour de France, sul Milan campione d'Italia. Mi sembrava il pomeriggio giusto, mentre aspettiamo tutti insieme a Siena, per ascoltare questa chiacchierata. Ricordo innanzitutto gli appuntamenti televisivi con l'Eurolega, che sono alle 18 di questa sera per Panathinaikos Montepaschi, diretta su Sport Italia, e alle 21 Maccabi Tel Aviv Real Madrid, domenica finale per il terzo posto 13:30 e finale per il titolo alle 16:30. Già che sono in termini di numeri e di orari, visto che stiamo per parlare di Giro d'Italia, vi anticipo che da domani cominciano anche gli speciali di Radio 24 sul Giro, speciali che sono programmati dopo il GR Sport delle 7 del mattino, e quindi questo accadrà tutti i giorni. Poi ci saranno tutti i giorni speciali alle 13 e alle 19, ma soprattutto ci saranno speciali all'interno di A Tempo di Sport, di Palaspicchi, ogni giorno, quindi all'interno dell'intera programmazione sportiva di Radio 24. Allora possiamo ascoltare questa chiacchierata, possiamo ascoltare Ivan Basso, i nostri microfoni. Voci dal Giro. Ospite d'eccezione oggi a Radio 24 perché prime pedalate del Giro d'Italia, e allora ai nostri microfoni ritroviamo con grandissimo piacere chi quella maglia rosa ancora l'ha sulle spalle, anche se quest'anno in corsa non c'è perché gli obiettivi, come vedremo, sono altri. Benvenuto Ivan Basso. Buongiorno a tutti. Si parla di ciclismo, si parla di grande sport, e allora al mio fianco non può che esserci Dario Ceccarelli. Benvenuto Dario. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, a te l'onore di aprire le danze con Ivan Basso in un giorno così particolare, perché la maglia rosa comincia a prendere altre strade, il Milan di Ivan comincia invece ad avvicinarsi a un tricolore, insomma tanti temi. Vai subito a ruota libera. Partiamo con la bicicletta, parte il Giro d'Italia. Ti chiedo quello che tutti gli appassionati ti chiederebbero. Non hai un po' di così di nostalgia il fatto di non essere lì alla partenza? Ma sicuramente il Giro mi manca, questo è normale. È la corsa dei sogni che avevo da bambino, e fortunatamente sono riuscito a vincerla due volte. E quest'anno, per una serie di motivazioni che ho condiviso con la mia squadra, abbiamo deciso di investire tutte le energie sul tour, proprio perché abbiamo un altro ragazzo in squadra che è Nibali, che può fare molto bene in questo Giro d'Italia, e soprattutto anche la condizione che ho avuto nell'ultimo periodo non era ottimale per poter affrontare un Giro d'Italia da protagonista. Ecco, con Nibali, che l'anno scorso, con il quale avete avuto un ottimo affiatamento, vi sarete detti qualcosa, gli avrei fatto qualche raccomandazione particolare. Che cosa gli hai detto? Ma noi ci siamo detti dall'inverno che avevamo la responsabilità di dare alla nostra squadra i risultati nelle grandi corse a tappe, ed è proprio per questo che alla fine siamo arrivati a prendere questa decisione, che bisognava dividerci i compiti, e così è stato. Io ho vinto due Giri d'Italia e per due volte sono arrivato sul podio del Tour, e credo che è doveroso che io provo a realizzare questo sogno, cioè quello di provare a vincerlo. No, sicuramente questo è importante, e adesso poi ne parliamo proprio anche del Tour. Vediamo un attimo così qualche aspetto del Giro. Dal punto di vista, ecco, del percorso, mi sembrava adatto parecchio alle tue caratteristiche. Sì, è un percorso bellissimo, un percorso con tanta salita. Vincerà il corridore più forte, con un tracciato con 7 arrivi in salita. È indubbiamente un giro esigente che giorno dopo giorno non si deciderà chi lo vince, ma a mio parere queste 7 tappe di montagna ogni giorno toglieranno dei pretendenti alla maglia rosa. È un giro anche dei 150 anni d'Italia, no? Si parte da Torino, si ritorna sull'Etna. Credo che quest'anno questo valore simbolico sia ancora più importante, no Ivan? Alla luce anche di quelli che sono stati gli ultimi mesi, e faccio riferimento anche a quello che abbiamo visto a Lampedusa, del dibattito che c'è stato intorno a un'Italia un po' lacerata, che forse trova proprio nel Giro d'Italia un filo rosso per rilegare alcune parti, alcune storie, no? Il Giro d'Italia è un evento speciale, unisce l'Italia. L'anno scorso sulle strade abbiamo trovato più di 10 milioni di persone. Vedi la gente che non va a lavorare per venire a vederci, le scuole chiudono per venire a vedere i corridori. Le montagne che scaliamo sono degli stadi in verticale. Questo fa capire che il ciclismo unisce. Il ciclismo è uno sport bellissimo, uno sport che sa trasmettere emozioni, e quindi sono fortunato a poter fare questo lavoro, questa professione, perché riesci appunto a trasmettere emozioni e a unire le persone. Gli manca il giro, Dario. Lo sento. Ma così faccio una breve parentesi, il giro è così, un po' si diceva è un romanzo popolare, l'Italia che va sulle strade, eccetera. Si dice anche che una volta c'era una maggior passione verso il ciclismo che è un po' lievemente scemata per via della questione del doping, della questione del fatto che ci sono spesso delle ombre. Ecco, a questo proposito c'è anche appunto tanto un corridore come Contador che è in bilico perché è stato assolto dalla giustizia sportiva, però rimane un po' sotto come con i riflettori accesi. Ecco, tu cosa dici a questo proposito? Ma io dico che 10 milioni e mezzo di persone nel 2010 sono tantissime. Io credo che è chiaro che ci sono dei problemi, bisogna anche riconoscere che il ciclismo ha fatto, sta facendo e farà sempre il massimo per così togliere le ombre che ci sono. Io credo che l'affetto del popolo, della gente che viene sulle strade, quello non è mai mancato e non mancherà mai. Questo chiaramente non giustifica gli episodi negativi che sono capitati in questi anni, però io credo che la gente ha apprezzato tutto quello che il ciclismo sta facendo per appunto dare a loro uno spettacolo che sia vero. Forse se c'è una delle poche conseguenze positive di questa situazione è il fatto che si è tornato a lavorare anche sulla base dei giovanissimi, no? Vedo che si moltiplicano le scuole di formazione al ciclismo, di educazione al ciclismo, a un ciclismo etico, pulito. Credo che si è tornati a formare anche i giovanissimi, no? Sicuramente le scuole di ciclismo è il futuro. Il futuro, ma torno a ripetere, io credo che il problema esiste perché comunque è d'attualità, ci sono state situazioni sgradevoli e spiacevoli per i nostri tifosi, però a volte viene anche fatto tutta una confusione tale che la gente non capisce nulla e quindi io credo che fortunatamente i nostri tifosi tifano con il cuore, non solo con quello che leggono, che vedono. Hanno un cuore e sono vicini a noi e lo dimostra appunto, io sono convinto che se l'anno scorso c'erano 10 milioni e mezzo, quest'anno probabilmente ce ne sarà anche di più. Proviamo a parlare degli italiani, la primavera è stata un po' avara di successi, ci si aspetta un po' una riscossa, ecco in questo giro c'è un favorito che è Contador per questione di blasone e poi c'è Nibali, c'è Scarponi, tu cosa dici? Credo che il ciclismo italiano sia in ottima salute e lo dimostrerà a partire da questo Giro d'Italia. Quando poi un fuoriclasse come Gilbert vince tre prove, diciamo, in Belgio, come abbiamo fatto qualche settimana fa, bisogna anche ammettere che quando un fuoriclasse vince dopo anni che è in costante crescendo, riconoscere che se c'è un atleta che è più forte va bene così, non è il ciclismo italiano che è in crisi, ma c'è un atleta che in questo momento nelle corse di un giorno è nettamente più forte. Ecco, questo tu vai là per... Vado là... Diciamolo, dai. Io, no, ma è chiaro che io so benissimo che ci sono atleti che negli ultimi anni hanno dimostrato di avere qualità migliori delle mie per poter vincere il Tour e sono atleti come Contador, come Andy Schleck, però sono altrettanto convinto che un atleta che ha vinto due giri d'Italia ed è arrivato due volte sul podio al Tour possa credere di poter vincere un Tour un giorno e non credo di avere ancora tantissime possibilità perché comunque l'età avanza e quindi bisogna già provare quest'anno. Allora, grazie a Dario Ceccarelli, in bocca al lupo a Ivan Basson, ti aspettiamo presto qui ancora a Radio 24. Ok, buona giornata. Voci dal giro. E questo era Ivan Basso, così apriamo le danze anche sul Giro d'Italia. Vi ricordo domani, ribadisco gli appuntamenti, da domani, dopo GR Sport delle 7, nel GR delle 13 e in quello delle 19 e poi a Tempo di Sport dalle 17 alle 18 e parleremo davvero di tutto. Vi aspetto domani, Franco Piantelini in redazione, Pietro Lacorte in regia, ciao!